Appare il parroco Natterer. 18 marzo. Sentii singhiozzare tremendamente. Per parecchio tempo riuscii a vedere niente, poi da una fitta nebbia uscì fuori la figura del parroco Natterer. Io non sapevo che era morto. È in condizioni da far paura, eppure non c'è dubbio, è lui. Egli fu sempre così scontroso, che il suo viso è indimenticabile. È una cosa tremenda se continua a venire. È avvolto dalla solita massa attaccaticcia che io vidi già in alcune apparizioni. Eppure quel poveretto mi fa pena. Devo ammettere di aver avuto tanta paura, che quasi piansi. Presto non ne posso più. Non si può nemmeno pensarci, se la cosa continua così. Ecco, io sono una povera creatura egoista. Ah, signor parroco, che cosa mi succede? Il soprannaturale minaccia la mia mente stanca e debole. Io non posso parlare di queste cose, perché ho paura di dire qualche parola importuna o inopportuna, che alla fine sia magari contraria alla verità. Eppure mi devo esprimere. Da sola non ne vengo fuori. La dipartita dal mondo prende il sopravvento ed io non mi posso difendere. Prima provo un grande dolore dei miei peccati. Quando viene questa cosa allora so, adesso incomincia. Poiché al mio stato naturale io sono molto spensierata. Poi mi trovo di colpo in un cerchio di luce, sento come un suono venire da lontano e poi qualche cosa mi porta con sé. Non posso vedere altro che chiarore, eppure la sensazione dice, che è qualche cosa, che mi attira a sé ed io sono qualche cosa d'altro. Non è un vedere, ma un pensare, come una volta io non avrei potuto. Io devo adorare e amare, eppure non ci sono parole, è un salire in qualche cosa di divino. Io la prego, io. Io non la voglio questa cosa, ma viene, mi afferra e mi trasporta lontana in una felicità impensata. Non è magari una fantasia. Essa mi tira talmente fuori dalla strada normale che ho paura. E devo confessare qualche cosa, me ne volevo eclissare, non ho più fatto meditazione, mi sono limitata alle mie preghiere d'obbligo. In una parola ho pensato di meno al buon Dio. Ed ora tutto si è peggiorato. Peggiorato dice l'uomo, animus in me, ma l'anima dice, più bello. Ma come faccio a nascondere questa cosa, se continua così? Spesso non mi sono sentita per niente chiamare. Quanto mi sento piccola e tutta divorata dal rispetto umano. Adesso che glielo ho potuto dire, è di nuovo più facile per me, abbia ancora tanta pazienza con me. 15 aprile. Per molto tempo non ho più scritto una riga, perché volli provare, come va, se ci penso di meno, ma fu lo stesso. Il parroco Natterer fu qui 14 volte in questo tempo. L'unica cosa che disse, ti prego di una santa messa. Dominava in lui l'inquietudine, e tale come finora non vidi mai nessuna apparizione. Non stava fermo un momento. Quella roba attaccaticcia incomincia a scendere a brandelli dopo la nona apparizione, molto strano soprattutto il suo viso. Ho gettato su di lui spesso dell'acqua santa, ed allora egli mi guardava con tanta riconoscenza, che questa fu la mia più grande gioia pasquale. Non devo continuamente lamentarmi perché vivo pure delle vere gioie, che non posso descrivere.